YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Buonasera e bentornati a Radio Tube, un nuovo appuntamento con la trasmissione di Radio 24 che vi fa ascoltare l'imperdibile, l'imperdibilissimo e pure il perdibile della settimana tra TV, Web TV, Social TV. Per questo mese di agosto vi lasciamo in compagnia degli incontri più divertenti, interessanti, appassionanti delle ultime settimane, ma torniamo presto e potete sempre stare in contatto con noi attraverso i nostri account di Twitter @ Marta Cagnola e @ Di Bellasio e con l'hashtag Cancelletto Radio Tube. Ecco la nostra puntata di oggi. I wake up determined to deliver a better life for the people all across this nation that have been ignored, neglected and abandoned. I am your voice. Allora, tu devi sapere che questa settimana è stata la settimana di un personaggio pazzesco, di un reality show continuo, una di quelle persone che tu da sempre la conosci. Sai che è una cosa strana, tutti pensano di sapere più o meno tutto di lui, sì. Tutti l'hanno sentito nominare ma da tantissimo tempo, anche se non seguono la politica, non seguono lo show business, non seguono la finanza, perché poi lui è in tutte queste cose qua, però in realtà tutti pensano di sapere tutto ma non è che si sappia molto poi alla fine. E tutti hanno una sua idea, dal clown al nuovo leader che salverà il mondo, al bravo come businessman ma scarso come politico, hai capito? Berlusconi. Ecco, lo sapevo che guarda, mentre parlavo, perché voi Brianzoli, quando si parla di quel personaggio, non stavi parlando di Berlusconi? No, non gli somiglia neanche tanto, se non per qualche problema tricologico. Donald Trump, questa è la settimana di Donald Trump. Allora, tu devi sapere che io, siccome ero un po' vittima di sta cosa, cioè ero convinto di... No, sta cosa è brutta da dire, di questo problema, no? Che tutti sono convinti di sapere tutto, ma in realtà non sanno. Allora, anch'io ho questa cosa per cui tutti sono convinti di sapere tutto di Donald Trump e della politica americana, ma nessuno, me compresa, sa nulla. Ecco, allora mi sono letto un libro. Oh, e in Italia è uscito un libro di un giornalista che io conosco, bravissimo, corrispondente dall'America del Foglio Quotidiano, che si titola La febbre di Trump, un fenomeno americano. Oh, quindi, fantastico, quindi tu sei preparato. Io lo leggerò perché non vedo l'ora di sì, saperne di più. Sì, stavolta sono stato io il secchione. Io non l'ho ancora letto, però abbiamo la fortuna di parlarne con l'autore. Mattia Ferraresi, ciao! Ciao a voi. Buonasera Mattia, come ti è venuta intanto l'idea di scrivere di Trump? Per primo? Per primo, peraltro. Per primo come libro, diciamo. No, certo. Ma è un po' perché c'era stato un lunghissimo ritratto che avevo fatto per il Foglio e avevo, come dire, gettandomi a corpo morto dentro la vita di questo personaggio di cui credevo di sapere tutto, come ha detto giustamente Daniele, e ho capito gettandomi che invece sapevo poco. Ma sapevo poco del pezzo di America che rappresentava, sapevo poco della storia che incarnava, dell'istinto che interpretava, insomma... Sapevo poco dell'America di Donald Trump, non solo insomma delle sue notizie biografiche, politiche o di business. E quindi ho scoperto un mondo, cioè ho scoperto l'America, adesso posso tirare una battuta scema, però un pochino è stato questo il motivo. Mattia, tu tra l'altro nel libro sostieni una cosa molto chiara, che è un po' in controtendenza con quanto tu sai si pensa qui in Italia, cioè... Qui in Italia l'immagine che arriva di Trump è quella di un errore, un caso, uno sbaglio della politica americana in generale, del Partito Repubblicano in particolare, che ha portato Donald Trump a correre per la Casa Bianca. Tu invece, storici alla mano, analisi politologiche alla mano, dati alla mano, vuoi raccontare invece l'opposto, che in realtà si inserisce, non dico perfettamente, ma si inserisce nella storia americana, è così? Io credo che sia esattamente così, che sia proprio parte di una tradizione, è un figlio dell'America, ma è un figlio dell'America in tutti i sensi, dal nonno che fa i soldi nel Klondike, alla Corsa all'Oro, il padre che fa i soldi, questa altra storia americana, fa i soldi facendo case, ma non i palazzi come fa Donald, quelli per dei ricchi sulla Fifth Avenue, ma le case popolari, quindi con soldi dello Stato, che è un'altra storia americana, cioè la storia dell'epopea del New Deal, A lui stesso, ovviamente, che diventa l'impresario del reality show, come era stato il Circo Barnum, perché le figure sono sovrapponibili in un certo senso. Ma c'è praticamente tutta l'America, e c'è tutta l'America anche politica, perché c'è una tradizione. Adesso noi sentiamo dire delle cose che ci sembrano tutte in contraddizione con quello che la destra ha sempre detto da quando siamo nati, anche prima. E invece però prima ancora c'era un'altra tradizione a cui lui si aggancia. Per cui ecco, ho scoperto e notato tutte queste connessioni che io credo siano determinanti, perché magari non sono coscienti ma rimangono sotto pelle, sono, come dire, parte un po' inscritte nel DNA dell'America. Io ho un po' l'impressione che quando giudichiamo l'America, quando cerchiamo di giudicare, di valutare l'America, corriamo il rischio di valutarla attraverso dei metri di giudizio che in realtà sono assolutamente italiani. Cioè cerchiamo di iscrivere i politici americani in categorie italiane, ma non sono sovrapponibili. Io non credo, anche perché ce lo dimentichiamo spesso. L'America è un paese giovane. Giovane vuol dire anche che è un paese che ha una storia breve, condivisa. Non c'è, voglio dire, l'Italia, l'Europa è invece frutto di una stratificazione millenaria. L'America no. Quindi, insomma, è anche, tra virgolette, più semplice risalire alle radici ideologiche di un fenomeno, ad esempio. E comunque c'è una coesione fortissima. Faccio la citazione colta per far vedere che ho studiato. Baudrillard diceva: in ogni singolo pezzetto di America c'è un microcosmo dell'America, cioè come se la contenesse tutta. Io credo che questo non sia vero dell'Europa, che invece è tutta complicata, un mosaico incasinato e tutto cresciuto nella storia in modo anche complicato e disordinato. L'America ha una sua omogeneità interna, per questo dico l'America. I fenomeni americani sono quasi sempre riconducibili a una tradizione molto chiara. Mattia, non ti chiedo se Trump vincerà, perché i pronostici li facciamo un'altra volta, magari più vicino alle elezioni, però ti chiedo un'altra cosa: dovessi scommettere, sarebbe la presidenza a cambiare di più Trump o Trump a cambiare di più la presidenza? Ma i sogni aiutano. Esatto, bravo, è proprio una domanda alla Marzullo. Cioè Trump diventerebbe più moderato, diventerebbe un presidente più normale, oppure è la presidenza che diventerà, si dice, più trumpizzata, trumpiana, non so. No, io su questo sono della tesi del logoramento del potere. Che chiunque finisce la Casa Bianca la realtà del governo, diciamo, Obama l'ha dimostrato abbastanza in 8 anni, no? Sì. Quanto è stato, come dire, costretto, quanto è stato determinato, eppure con che premessa aveva iniziato, no? Io credo che sia fisiologicamente così: uno viene piegato, viene plasmato da un potere enorme che nessun rivoluzionario, ma neanche il più folle dei populisti riuscirebbe a rovesciare, io credo. Certo, detto questo metto un asterisco, perché ovviamente un anno fa io per primo e in buona compagnia dicevamo no, non diventerà mai candidato del Partito Repubblicano, figurarsi, quindi potrei dovermi rimangiare tutto come già fatto. Come hai scritto tu, hai ricordato tu nella quarta di copertina del tuo libro La febbre di Trump, un fenomeno americano di Marsilio, molti hanno riso di me nel corso degli anni, ora non ridono più, dice Donald Trump. Vorrei parlare anche un po' di spettacolo e vorrei introdurre il tema così. Vai. E i Queen, o quel che resta di loro, si sono arrabbiati perché ha usato We Are the Champions. La famiglia Pavarotti ha mandato un comunicato anche lì criticando. Insomma, tutto il mondo dello spettacolo sembra, tranne Scott Baio. Ma io volevo arrivare lì, c'era Chucky. Mattia, te lo ricordi? No, ma Mattia è troppo giovane per ricordare. Però Chucky c'era. Che invece ha preso parte alla... così. Sì, c'è sto fatto, Mattia, che la gente non vuole essere accomunata, però insomma, questo ormai è il candidato repubblicano alla presidenza. Quindi, che dici? Certo. No, sì, è chiaro, no. Certo che la gente non vuole essere accomunata. Diciamoci anche, diciamo, la verità intera. Il Partito Repubblicano, quando si tratta di coinvolgere personaggi dello spettacolo, le celebrity, da Hollywood, alla musica, becca un po' sempre sì. Di Serie B c'era il solito Chuck Norris. I democratici hanno sempre Bruce Springsteen, i repubblicani di solito hanno Kid Rock, comunque delle star minori, insomma è sempre un po' così. Io trovo che sia abbastanza in linea, devo dire, con la tradizione. Forse qua c'è un po' di più l'aspetto di volersi associare con un personaggio così controverso e ingombrante, però secondo me anche lì un po' di tradizione c'è. Bene sì. Va bene. Bene sì. Mattia Ferraresi, autore di La febbre di Trump, edizioni Marsilio. Io me lo sono già comprato. Ciao così. Mattia. Ciao. Radio Tube. E per parlare di... Ah, c'è Squirtle. No, che è successo? No, è Chandra Locabella che ha trovato Squirtle. Che... Ma è che è qui in giro, qui. Evidentemente qua, però io non l'ho trovato. Ma io non ho neanche ancora scaricato. Ma io non so niente. L'app. Nella pausa lo vado a cercare, perché sì, c'è ancora. Sarà qua sotto, vedi, c'è ancora, c'è ancora, è ancora qua da queste parti. Ma non si vede, si vedono delle cose strane, non si vede la redazione. La redazione si vede solo quando prendi il Pokémon. Allora... Per parlare del campo di Hillary e della convention democratica, sì, abbiamo due ospiti. Allora, Gianluca Di Tommaso, che io chiamo solo GD Tom. Io lo chiamo solo GD Tom come suo account di Twitter. Eccolo ciao qua. Gianluca. Ciao a tutti, grazie. E poi Davide Burani di Burani 83. Ciao Davide. Ciao, grazie. Che allora, sono due matti, oltre allora, i due amici. Infatti io voglio partire dal loro essere matti, sì, dal loro fare delle cose nella vita e dal loro occuparsi, non so quanto per diletto, di elezioni americane. Chi dei due mi spiega prima cosa fate? Gianluca, vai. Allora, sì, facciamo altro nella vita, però l'idea di seguire con grande passione la politica americana ci accomuna da un po' di tempo. Abbiamo poi messo su un podcast e abbiamo seguito tutte le primarie, sia repubblicane che dei democratici, sin dall'Iowa, quindi sin dal 1 febbraio, facendo appunto dei podcast prima e dopo, e ovviamente continueremo fino alle elezioni presidenziali. Devo dire che è una cosa molto bella, perché sì, uno... Poi il podcast sta prendendo alla grande, la vavuma. È il futuro della radio. Cioè il podcast è quella cosa che tu scarichi, no, spieghiamolo, è come intanto, se fosse una trasmissione radiofonica che sta sempre nell'etere, nell'aere, che tu ti scarichi. Ci sono anche meccanismi automatici di scarico della cosa, e poi ti riascolti Gianluca e Davide e che ci raccontano. Possono essere podcast di trasmissioni radiofoniche tradizionali, così come la nostra. Esatto. Folle, ma tradizionale nel senso che vai in onda sull'FM, esatto, e quindi ti iscrivi al podcast e ti arriva il podcast, oppure persone che lo fanno proprio solo per la gioia, il piacere di fare un podcast e noi di ascoltarlo. Quindi podcast che seguono tutte le convention, che seguono tutte le campagne. Hillary, no, e dobbiamo parlare di Hillary, per esempio, non so, nel podcast su Hillary, il titolo del podcast su Hillary, Davide, quale sarebbe? Questa è impegnativa. Difficile. Come impegnativa? Beh, allora, il podcast secondo me su Hillary potrebbe essere, prendendo spunto anche le parole che ha utilizzato Paola Peduzzi su Rivista, sì, Studio, è Hillary ha rotto quel soffitto di cristallo delle donne. Cioè il fatto di candidare, di essere la prima candidata donna alla Casa Bianca, la fa essere in una posizione molto difficile anche. Rischia di aver già fatto la storia per essere la prima candidata donna e rischia quindi di non fare l'ulteriore passo per arrivare davvero a essere la prima presidente donna. È un aspetto molto interessante che ha toccato forse in parte, parlando del valore anche della sua candidatura, alcuni che sono intervenuti durante la convention democratica, ma può essere forse un aspetto molto interessante. Vai Davide. L'abbraccio di Barack. Perché Obama giusto, secondo me ha fatto un lancio straordinario nei confronti di Hillary. Anche se secondo me Marta tifa per un altro Obama. No, per io un altro Obama. Per Michelle. Beh, no, io volevo lanciare al volo questo Barack Obama. Vai. Così per fare un po'. Vabbè, allora no, dai, parliamo di Michelle. No, perché Michelle è stata Michelle Obama. I wake up every morning in a house that was built by slaves. Black young women playing with their dogs on the White House lawn. Beh, ragazzi, l'idea, l'immagine della casa costruita dagli schiavi e le mie due bellissime figlie, due bellissime ragazze, giovani ragazze nere, che giocano sul prato della Casa Bianca, ragazzi, nessun film, no, cioè una sceneggiatura meglio di un Trump film. Non può copiare questa frase, perché povera Melania. No, questa frase non la può copiare, ma non era neanche stata ragione. Povera Melania, non, vabbè, è che aveva copiato lei il discorso, era stata quella là che poi ha dato le dimissioni, che poi sono rientrate, eccetera. Allora, vogliamo dire, c'è chi ha detto che Hillary in fondo ha fatto un discorso molto normale, molto, invece Michelle ha fatto un discorso esplosivo. Siete d'accordo? Sì. Sì, Hillary ha sostanzialmente rimesso in piedi, a parte un paio di importanti passaggi, per esempio mi viene in mente uno sulla una citazione di Jackie Kennedy, molto bella, ha fatto il suo classico discorso, cioè quello che, raccontando alcuni passaggi della sua storia, l'amore per la sua, per sua madre che le manca tanto e che le ha insegnato moltissimo, insomma è stata Hillary. Puntigliosa, pragmatica, precisa, secchiona. Mm-hmm. Hillary è una secchiona. Al contrario, ovviamente, di una, di un Obama, per esempio, o anche di una Michelle, che raccontando e facendo due discorsi come quelli che hanno fatto, fanno volare molto più alto. E sono decisamente più empatici, entrano diretti nel, nella storia e anche nel pop. E nel pop abbiamo parlato di grandi personaggi che si sono schierati a favore del Partito Democratico. Lo avevamo detto anche con Mattia Ferraresi, però, che tradizionalmente il Partito Democratico ha più appeal sulle star di Hollywood. Poi, ad esempio, you people have made history. Avete fatto la storia e farete ancora la storia a novembre, perché Hillary Clinton sarà la prima presidentessa donna e sarà una grande presidentessa e sarà la prima di una lunga serie, beh, insomma, che di uomini e donne che serviranno il paese con grazia, Meryl con saggezza. Meryl Streep, l'urlo di Meryl Streep. Anch'io e le mie amiche, quando ci troviamo, così uguali. Però è stata anche così scenicamente una convention significativa, ragazzi. Lo ha ben detto Jim Rutenberg sul New York Times, che la convention democratica è stata una convention molto scenica, molto per la TV, mentre quella repubblicana lui l'ha definita fatta apposta per Twitter. Ah, bella questa, bella. Questo si connette anche a due modi completamente diversi di comunicare di entrambi. Trump tende ad occupare i media. Sì. Rilanciando, facendo polemica, essendo sempre la prima notizia sulla prima pagina. Questo da tutte le primarie è la sua impostazione della comunicazione. E ovviamente sfrutta anche Twitter come canale per essere ripreso dai media. Lui sfrutta una cosa che a livello di pubbliche relazioni teoricamente non funziona, non dovrebbe più funzionare nel 2016, cioè il purché se ne parli. Nel bene e nel male. Lui invece la sfrutta pienamente ed è riuscito ad acquisire consensi proprio in questo modo, e in questo modo ha anche risparmiato tantissimi soldi, perché ha avuto tantissima visibilità mediatica gratuita. Hillary invece ha fatto una convention ovviamente più standard, cioè perfetta per la televisione, oltre ad aver utilizzato ovviamente personaggi come Meryl Streep o altre attrici, anche Bloomberg, per esempio. Lena Dunham, sono altri personaggi che sono intervenuti, Katy Perry, sai, il concerto di Katy Perry, che ha cantato le canzoni, sono tutte cose che in TV rendono tantissimo. Ma ha una impostazione della campagna molto più classica, quindi convention puramente televisiva, spot a tappeto, creati, perfetti in tutti gli stati, con un posizionamento perfetto, e una campagna porta a porta. Trump invece fa un'altra tipologia di campagna. Sono due modi di comunicare completamente diversi, si distinguono anche in questo tantissimo. No, interessante la cosa del risparmio, perché tutti pensano Trump miliardario, ma in realtà, come Bloomberg gli ha detto, no? Peraltro gli ha detto miliardario per modo di dire, in realtà Hillary, la macchina dei Clinton, è molto, ma molto più facoltosa della utilitaria di Trump. Questo è interessante, Dan. Infatti la campagna dei Clinton, mi pare di aver letto l'ultimo dato, erano 464 milioni di dollari raccolti. Così, con... così. E... più o meno Pogba. Quattro volte Pogba. Pogba. Dai. E mentre Trump è in grossa difficoltà, perché se da un lato appare come il candidato anti-establishment, anti-elite, dall'altro lato l'elite è quella che poi finanzia le campagne. Infatti, leggevo che sia Trump che i fratelli Koch, Charles Koch mi pare, fossero entrambi a Colorado Springs. I Koch sono quelli che avevano stanziato qualcosa tipo 800 milioni di dollari per queste presidenziali, ma non si sono incontrati perché i Koch sono molto restii a finanziare la campagna di Trump. La scelta di Pence da questo punto di vista può essere sensata, perché Pence, il candidato vicepresidente, è molto amico dei fratelli Koch e molto stimato. E i fratelli Koch sono dei miliardari vicino al Partito Repubblicano, ma di tendenza molto più libertaria. Invece Trump, il protezionismo. E torniamo al fatto che noi in Italia pensiamo di incasellare democratici repubblicani in caselle che noi cioè tendiamo a sovrapporli a quelle della politica italiana come categorie. Inoltre in queste elezioni è ancora più diverso, sono saltati tantissimo gli schemi. Il dato interessante, a mio parere, ne parlavo prima con Gianluca, è che mentre nel 2012 la divisione tra Obama e Romney era una divisione classica, sì, tradizionale tutto sommato, nel 2016 è saltata, nel senso che l'esempio su due argomenti mi viene. Il primo è la politica estera. La piattaforma di Hillary risulta essere molto più repubblicana rispetto a quella di Donald Trump. E la divisione non è più, e da questo Obama secondo me è stato il passaggio più bello e più politico del suo discorso, non è più tra democratici e repubblicani, ma tra una piattaforma di apertura, che è la classica piattaforma, diciamo, democratica, che si allarga però anche a quei repubblicani moderati che non vedono di buon occhio la candidatura di Donald Trump, e una piattaforma più... più protestataria, ma non nel senso cattivo del termine, è una piattaforma più diciamo di pancia, che viene di alimentata paura, di voglia, di protezione, di pancia, che Trump sicurezza e identità sono le due parole chiave di Donald Trump. La copertina dell'Economist da questo punto di vista è molto bella, perché c'è appunto il lato democratico con arcobaleni, persone diverse che vivono diciamo sulla stessa terra, e dall'altra parte con in mezzo il solco la piattaforma con il muro, diciamo, che è diventato un po' il simbolo della campagna di Donald Trump. Su questo tema Friedman qualche giorno fa, Thomas Friedman sul New York Times, ha fatto una distinzione secondo me perfetta, cioè gli elettori americani in queste elezioni non si troveranno a scegliere tra appunto i classici repubblicani e democratici, ma tra la wall people. Noi abbiamo una differenza tra la wall people e la web people. La wall people sono quelli che vogliono bloccare tutto, quindi creare i muri, chiudere, protezionismo, contrario al TTP, che è il cosiddetto accordo verso il Pacifico, di accordo di libero scambio verso il Pacifico, oppure la web people, quelli che sono pronti a prendere il cambiamento sotto ogni sua forma, quindi innovazione, cambiamento politico sulla piattaforma, sulle politiche. Beh, questa è una distinzione che c'è anche da noi, anche in Europa può ricondurre ad alcuni schemi, anche se, come dicevi tu Marta, fa saltare le categorie tradizionali. Anche se sul tema del TPP c'è stato questo bellissimo scambio trattato di libero scambio transatlantico. Adesso non mi viene in mente una persona molto amica che si è definita il governatore della Virginia, che ha dichiarato che la Clinton aveva appoggiato il TPP. Subito ha ribattuto John Podesta, che è il chairman della campagna di Hillary, che ha detto no, in realtà Hillary non è mai stata a favore del TPP. Rinegoziare, dice le cose strane. La verità lì, molto banalmente, è andata così, che Hillary ha avviato le trattative per il TTP quando era segretario di Stato. Ovviamente ha lasciato l'incarico. Lei poi ha detto: non sono più a favore di questo accordo di libero scambio verso il Pacifico, verso i paesi del Pacifico, perché quando non sono più stata io al comando nel Dipartimento di Stato hanno cambiato tutte le negoziate, dice. Ragazzi, il podcast, voglio sapere come segnalare agli ascoltatori dove si trova il vostro podcast, a parte seguendo i vostri account di Twitter GD Tom e di Burani83. Allora, su SoundCloud si chiama il podcast, è US Insider. Perfetto. E quello è il nome del podcast. E se noi cerchiamo anche solo con Google US Insider, si trova subito. US Insider podcast. Ho fatto la prova, ascoltatori, si trova subito. Quindi o su SoundCloud, come ovviamente come sistema di streaming normale, o anche di download, o ovviamente su iTunes. Fantastico. Grazie. Grazie a Gianluca Di Tommaso, grazie a Davide Burani, che davvero... Ci rivediamo a novembre quando fa sul serio. Sì, direi che vi rapiamo di nuovo per... per le tappe di avvicinamento a queste elezioni che ci incuriosiscono molto. Grazie, grazie a voi. Ragazzi, grazie a voi. A presto. Una breve pausa, poi saremo ancora insieme. YouTube. Ma guardi, signor Rovazio, in mano quella sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare. Mi spiace. Ho un problema nella testa, funziona a metà. Ogni tanto parte un suono che fa. E ogni volta che mi parte sito imbarazzante, come quella volta che stavo al ristorante. Posso offrirti da bere, lei dice va bene, solo che quando le passo il bicchiere. È una malattia, è pericolosa, statemi lontano, è contagiosa. Non so se sono pazzo o sono un genio. Faccio i selfie mossi alla web che io non mi fumo canne, sono anche stemio. Io non faccio brutto, ma contrattore in tangenziale. Andiamo a comandare, scatto foto col mio cane. Andiamo a comandare, in ciabatte nel locale. Andiamo a comandare, sfaccio acqua minerale. Andiamo a comando. Posso dire il delirio che io non avevo mai visto negli studi di Radio 24? Le lettere dei bambini, i fan, le foto. Io che voglio fare tu subito, che vuoi fare subito la foto. La prima cosa, devo fare subito una foto con lui. Lui è il fenomeno, ma non con la F maiuscola, se tutte le lettere maiuscole. Tutte le lettere maiuscole, e soprattutto se ci fosse il Festival Bar, per esempio. Ti ricordi che l'anno scorso abbiamo fatto una campagna? L'avrebbe spaccato, già vinto. No, neanche spaccato, sarebbe spaccato, iniziato. Ride, ma sai perché ride? Ma perché lui non lo se lo può ricordare il Festival Bar? Perché, giusto, è vero. Perché lui n'era l'hai, neanche l'hai sentito na... parlare? Sì, sì, sì, qualche volta sì. Allora, abbiamo già sentito la voce. Abbiamo già sentito la voce. Allora, quando io dico a Daniele Bellasio, sai, vorrei invitare e dico dei nomi, lui dice... Ma mi fido, sì, è sì, uno famoso, boh, non lo so. Quando ma ha detto, quando il ha tuo detto nome? Fabio Rovazzi. E lì sono scattato in piedi, ho detto, ammettilo, a qualunque ora, in qualunque verissimo, giorno. Verissimo, va bene. Verissimo. Siamo qua. Gli abbiamo dovuto spiegare anche dei nomi, niente, no, proprio Fabio Rovazzi. Allora, raccontami, Daniele, no, raccontami perché... come fai a conoscere sono Fabio curioso Fabio anch'io, Rovazzi, in realtà. A questo vabbè, punto. No, non ecco. Sei tanto curioso, lo sai. Come io sono un papà di un bimbo di 8 anni, sì, che ovviamente sa usare benissimo tutti gli smartphone, ha dei miti musicali, aveva dei miti musicali, non so, gente tipo Fedez, Mischilla, okay, che poi è di Vimercate, finché sei arrivato tu. A quel punto il pregresso è stato azzerato, perché andiamo a comandare, che secondo me c'entra il fatto che all'inizio del video ci fosse Fedez, è stato l'aggancio sull'ottenne. E poi glielo chiediamo, E da lì tu sei diventato, basta, sì, togliamo quelli sotto bene, l'anno, metà Italia ti hanno visto. Me ne sono reso conto, mi preoccupa un po' questa cosa. Anche perché sei un ragazzo giovanissimo che si trova, mi hanno detto, i ragazzi sotto casa, dalle scolaresche in su. Sì, anche proprio una scuola. Ah, una scuola sì, intera? Mi sono trovato una scuola elementare sotto casa. Sì. Vedi, era probabilmente quella di Rocco, ma non faccio il nome per non mettere in... Perché il tuo pubblico ha da che anni, a che anni, alla nostra età ovviamente. Lo sto scoprendo ora in realtà, da un anno a 70. Verissimo. È incredibile. Verissimo. Non ho parole, non ho una spiegazione a tutto questo, però molto bene, molto molto bene direi, no? Tu che sai queste cose, lui ha vinto quel disco che gli altri vincono avendo il disco? Sì, senza disco. Cioè solo digitale praticamente, ha già raggiunto quella... Cioè, ma neanche di acquisti digitali, di streaming. Esatto, sì. Io cosa devo dire? Io apro le braccia e dico No, ho capito, però ci sarà un giorno in cui hai detto adesso faccio una cosa che spacco. No, allora in realtà è nato per scherzo, lo dico sempre. Non è nato con l'intenzione di diventare un tormentone o cose del genere. È diventato un tormentone. Sì. Non forse è così, non è forse stato bisogna studiato. Partire con l'idea... Purtroppo se ci fosse una regola per dire mi studio una cosa che diventerà un tormentone, che farà, non esiste purtroppo, se no saremmo tutti qua con però gli dischi d'oro. Però a te piaceva il rap, perché ho letto anche in un'intervista, dici no sì. Ma io non voglio essere considerato un cantante. Ma no, ma io non sono mai stato un cantante, io ho sempre montato video, mi è sempre piaciuto fare regia, montaggio, scrittura, fino a quando poi facendo anche un po' il pirla, tra virgolette, sul web, ho deciso di fare questa canzone, però non sono un cantante. Non cioè, tra l'altro tu poi lavoravi con importanti youtuber, cioè sì. Facevi quello che stava accanto agli youtuber, esatto, importanti, che stato... adesso ormai ti guardano con... siamo tutti colleghi, amici. No, io sono sempre stato un topo da laboratorio che adesso si è ritrovato in questa situazione e dice, oh mio Dio, perché? Quindi niente. È molto bello. Poi ti avevamo visto in TV, sì. A Sorci Verdi. Sì. Facevi l'attore lì però. Sì, lì facevo l'attore. E abbiamo fatto questo programma un po' cercando di dare un po' di innovazione dentro la Rai, facendo sketch comici, una sorta di talk show stile americano con Axe. E sì, lì ho fatto l'attore, quindi faccio un po' di tutto. Se avete bisogno pulisco anche le radio. No. No, vabbè, ma qua ragazzi, che ruolo hanno avuto Fedez e J-Ax quando nel tuo successo? Allora, il ruolo in realtà è quello che vedi nel video, perché di per sé tutto il prodotto è stato autoprodotto da me, cioè tutta la canzone, il video, eccetera, eccetera. Quando ho consegnato il lavoro finito sono entrato a far parte di Newtopia, che è la loro agenzia. Quindi a lavoro finito? Sì, e adesso proseguiremo con dei progetti nuovi con loro, che parteciperanno molto più attivamente, non dicendo solo Rovazzi ma che cazzo fai, ma cioè, e quindi, che è già un punto di partenza, quindi, nell'interazione, sì ma comunque già, è meglio di niente, ha fatto tantissimo, tra l'altro solo quella frase di Axe è diventato un tormentone quasi più della canzone, quindi incredibile. E niente, quindi adesso inizieremo a lavorare insieme e vedremo cosa verrà fuori. Ma più sulla parte video o più sulla parte suono? No, io voglio portare avanti un po' il progetto musicale, non lo nascondo. Ah, ok. Ecco, okay. Vabbè, sì. No, a me veniva in mente che per esempio, non so, adesso per dire uno che penso ti faccia piacere come paragone, Jovanotti, credo che all'inizio non pensasse di diventare un cantante di questo tipo, no? Quando faceva il DJ. Sì, secondo me se Jovanotti fosse nato ora sarebbe un vlogger, tipo ciao ragazzi, ecco qua. Infatti, secondo me farebbe un vlogger. Per spiegarlo a mia mamma, come lo definireste? È una persona che parla con una telecamera di cose che fa durante la giornata, eccetera, eccetera. Cioè, hai presente il diario, quello col lucchetto, con la penna? Ma deve parlare di argomenti importanti oppure anche quello che fa il tutorial dei video, tipo Favij, è un vlogger? Favij è un vlogger? No, Favij è un gamer. Favij fa... attenzione, ma ce ne sono in categoria. A casa prendete Fabio, il block note. Allora, lui intanto... sono un uomo del secolo scorso. Sa chi è Rovazzi, aspetta, adesso bisogna... Non esageriamo, dice. Anzi, ho già citato Jovanotti, arrivò a Ron in men che non si dica. Comunque. No, perché allora, potrebbe anche fare un vlog Favij se facesse un video diario magari di una sua giornata. Ah, deve essere proprio un video diario. Però i tuoi video invece sono video... con una mini storia all'interno e con un soggetto tendenzialmente ironico comico. Sì, sì, spesso così. Poi ogni tanto metto dei vlog, ho messo dei vlog su YouTube di viaggi, ma ognuno fa tutto. Siamo in quel di Miami, ci siamo appena svegliati e giustamente uno dice ci rilassiamo. No. Una tortura tipo russa. E ora siamo in direzione spiaggia. Salutate raga. Fottiti Rovazzi. Ah, ma che bello. Io sto facendo un vlog. Con la maglietta al mare. Ma perché mi vergogno del mio corpo? Sei veramente improponibile. Non è vero, sono fighissimo. Guarda che bello. Ora stiamo andando a vedere una partita dell'NBA e non capiamo un cazzo di basket. Abbiamo appena ritirato i biglietti e stiamo entrando. This is my new friend. Hi. I'm Yolanda. Next one. Okay. 120. Thank you so much. Ecco, ma per esempio cadenze, capito, cioè 2016 diverse... ognuno fa tutto. Sì, no, infatti cioè... voglio imparare. Ma infatti adesso voglio vedere i tuoi vlog i prossimi. No, giorni. Guarda, i miei vlog, però qualcosa no, sui social ci sono. Un vlog di Daniele Bellasio. Allora volentieri. Adesso lo promettiamo agli ascoltatori. Ah, certo. Lo perfetto. Faccio, ma ecco, ma chiedo, vai. Cioè tu cadenzi un po' allora su YouTube faccio più quello, su Facebook faccio più quell'altro, con il rap però non ci faccio il video comico, cioè diversifichi, diciamo così, oppure mischi? No, io diversifico molto, cioè non faccio mai cose uguali. Poi dipende anche molto dalle piattaforme, cioè su YouTube puoi caricare video lunghi da 10 minuti, un quarto d'ora, su Facebook carichi video più corti, e ogni piattaforma ha il suo format, diciamo. E quindi vabbè, comunque io voglio dirti una roba: tra 2 anni devi fare una canzone, adesso devi fare i vlog. Da domani, guarda, i vlog lo faccio, la canzone. Quando io ero alle elementari c'era l'insegnante di musica che diceva: tu apri la bocca, gli altri cantano, però tu devi aprirla, perché sennò sembri l'unico silenzioso. Era un playback, non potevo assolutamente. Bellissimo. Da domani lo faccio. Fashion blog su Instagram. No, fashion blog. Ma dai, ma mi hai visto, scusami. Domani o Marta mi dà qualche dritta, ti fai un selfie e scrivi hashtag camicia di lino, fai, così, non so, fai, no, da domani devi essere attivo sui social, basta. No, ma sono è finito attivo, il periodo un pochettino ma andiamo a comandare anche un messaggio politico? No, devo essere sincero, vorrei peccato. Risponderti volevamo, inventando qualcosa. Volevamo no. pensare no, questa no. cosa. No. Tu già eri pronto a fare. No, però, perché lui è esperto di politica. No, però già... comunque la cosa positiva. No, già della... trovi la metafora della. Vabbè, cioè, si intitola Andiamo a comandare, non è proprio una metafora, è un'affermazione di se stessi. Ecco, sì. No, sarebbe un andiamo a divertirci. Sì, però. Cosa... Va bene, ok. No, mi dispiace. Marta, tu non puoi divertirti. No, perché io stavo aspettando una delle tue metafore della situazione politica. La voglio sentire anch'io, la metafora. Vai. Non lo so, poteva leggerci un messaggio renziano, oppure un messaggio... Te l'ho detto che ne trovava uno. Non so, poteva essere un messaggio... Ma non voglio metterlo in difficoltà, perché e invece... devi portarmi... E invece... Tu segui la politica? No. No, per niente. No, non seguo molto. Io vivo un po' nel mio mondo. E io seguo... che cosa hai fatto il tuo mondo? Io seguo un sacco la comicità americana, quindi seguo talk show, programmi, grande. Cose così. Guardo un sacco di film, un sacco di telefilm, perché mi piace proprio quel mondo lì. Quindi l'unico modo per essere sempre sul pezzo è guardare tutto quello che fanno gli altri. Quindi niente. Ma anche da noi, invece in Italia, che cosa? In Italia nulla, posso essere sincero con te. Non vedo tante cose. No, ma non proprio. Non, magari ce ne sono. Cioè, e la non televisione, sono quella di noi vecchietti, tu non la guardi. No, la TV proprio zero. Ogni tanto mi capita, ma no, non la guardo, sarò sincero con voi. No, ma che l'abbiamo preso quasi come noi. Esperimento antropologico ormai, Fabio. Sì. Anche se la cosa più bella è quando avevi la maglietta. Com'è, ho fatto il disco d'oro. Vuoi limonare? Bellissima. Era una cosa molto come per dire adesso ho fatto successo, basta. Cioè, va così. Adesso... funzionato? No, non funzionato. No. Quindi no, vabbè. Quindi i vlog non è che portino granché. No, la mia vita purtroppo fa schifo. No, perché ma scusa, adoro, ma adesso col successo che avrai, anzi, avrai bisogno di un servizio d'ordine attorno. O no? No. Perché piaci di più ai maschi, quindi, come maschile? No, anche femminile. No, ce l'ho. No, ma stavo scherzando, comunque va tutto molto bene. Ragazzi, solo un attimo di pausa però, perché è il momento del traffico, poi ci ritroviamo ancora con RadioTube e soprattutto con Fabio Rovazzo. YouTube. Non so se son pazzo o sono un genio, faccio i selfie mossi alla web che io non mi fumo canne, sono anche stemio, io non faccio brutto, ma contrattore in tangenziale, andiamo a comandare, scatto foto col mio cane, andiamo a comandare, in ciabatte nel locale, andiamo a comandare, spaccio acqua minerale. Andiamo a comando. E ce l'abbiamo noi, Fabio Rovazzi, qui a RadioTube questo sabato pomeriggio. Yeah. Andiamo a comandare. Che grande pezzo. Ma Fabio, andiamo a comandare anche nel calcio? Abbiamo parlato di europei, andiamo a comandare anche nel calcio? Ma in realtà mi è stato detto che dei giocatori avevano promesso di fare la mossa di andiamo a comandare quando ci sarebbe stato un gol, ma non ho visto nulla. Cioè, quindi una... hai anche una squadra del cuore? Ovviamente l'Inter, no? L'Inter. Visto il successo. No, vabbè, ecco, ciao. E abbiamo risolto tutto. Finita. Vedi che le generazioni sviluppo e dopo si ritrovano. Vabbè, esatto. Diventeremo migliori amici. Che non dovevo chiedere o almeno tuo zio. Però devi tenere a mente, perché lui sta facendo tutto questo discorso sviando sulla politica, cioè, sì. Ma tu da domani vlog, fashion blog, io te lo ricordo ogni 10 secondi. Guarda, io lo faccio, però dovresti dare. Allora, dimmi una cosa, io domani lo voglio fare. Mi dai Vai. Un consiglio, un trucco? Vai. Per cui quel vlog lì che io domani faccio, dico che almeno 20 ne fa di like e di condivisioni. Poi mette la maglietta, vuoi limonare? Ho fatto il vlog. Fammi dare il consiglio che magari qualcun'altra casa interessa. Beh, già se fai... dovresti fare la giornata tipo di una persona non della nostra generazione. Quindi già sarebbe una cosa innovativa. Se porti questa cosa, che comunque è un'innovazione, già sei più virale di altri. Già divento virale perché sono me stesso. Esatto. Esatto. No, e poi ha detto innovazione, ha detto una roba... È difficile, la cosa difficile del web è sempre trovare qualcosa di nuovo che non fanno gli altri, perché se tu copi gli altri e segui un filone vai a finire insieme a tutto quel gruppo lì, mentre se trovi qualcosa di nuovo spicchi un po' da tutto il resto, quindi quella è la difficoltà del web, e non è tipo ogni mese devi trovare, ogni giorno devi trovare una cosa nuova. Eh sì, questo è quindi... ogni giorno. Ma quindi, cos'è auguri. Cos'è questa cosa di spaccio o sboccio che te lo chiedono tutti? Allora, non vi dirò mai se dico spaccio o sboccio. Semplicemente non riescono a capire se io dico spaccio o sboccio nella acqua canzone. Minerale. Sì, perché secondo me perché sboccio più al sud non lo capiscono, è una cosa più milanese forse. Però non vi dirò mai qual è delle due. No, non voglio dirlo, no. Perché mi sto divertendo un sacco. Vedo gente che si fa la guerra, è fantastico. Sì, sì, abbiamo visto secondo anche voi... la letterina della bambina. Secondo del voi nostro è spaccio o sboccio? Secondo me è sboccio. Sì, io pure. Secondo me è sboccio. Cioè... è sboccio. Secondo me è okay, sboccio. Io voto sboccio. Per voi è sboccio. Ma alla fine dell'estate lo dici? Alla fine dell'estate sì, lo dico. Tipo al festival bar. Al festival bar. Noi subito alla finale del festival bar. Ormai condotto da Jerry Scotti che abbiamo avuto. Esatto. Tu hai 22 anni, però lavori già da un pezzo. Perché ho letto che tu facevi video già da tanto. Da tanto no, saranno 4 anni. Beh, per averne 22 è tanto. No, ma poi la qualità dei video comunque. Sì, io ho iniziato dai locali, come dicevo prima, perché la prima cosa che puoi fare qua in Italia come video, se non sei inserito in nessun mondo, è fare i video dentro i locali, quindi i classici after movie delle discoteche. Poi da quella roba lì ho iniziato a farmi un po' di contatti nella musica elettronica e da lì ho iniziato a fare video musicali. Nel campo della musica elettronica ho fatto un video bellissimo per Merck & Cremont, che tra l'altro hanno prodotto Andiamo a Comandare, che è uscito su Spinning, che adesso tra l'altro ieri ha festeggiato 10 milioni 9 milioni, è andato così, bene tanto perché è andato benino quindi niente, ho iniziato così. Poi in tutto questo percorso ho iniziato a dire: ma perché devo fare video agli altri, li faccio anche per me? E quindi ho iniziato a fare un po' l'attore comico sul web, facendo cose su Facebook. Senti, io ti... Senti... Senti, io ti vedo più come un'amica. Non riesco a vederti... frenzono, cioè a caso. Sei simpatica, sei gioiosa. Che cazzo sto dicendo? Dante Alighieri. Senti, secondo me sei un rutto con le gambe. No, glielo ho mandato. E da quella cosa lì ho conosciuto Fede Axe, abbiamo iniziato a lavorare insieme, ho sempre fatto un po' di tutto. Non ho sì, mai quella capito è la chi cosa sono. Che a me colpisce più di tutto. Ne avevamo parlato anche con, non mi ricordo più chi, con qualcuno di questi altri. La qualità cinematografica del video, cioè quello dove tu dici alla tua più o meno ragazza che non te ne frega molto di quello che ti fa passare negli ultimi giorni, no? Che c'è l'inquadratura sì. Che poi si allarga, c'è dietro una Milano fantastica. La vastità, ok. No, però in 3 minuti ci sono 4-5 cose che gli esperti di cinema come Marta direbbero: ah, però no, sono cose di qualità. Però com'è che uno dice ma lì in realtà ti dico un segreto, ma tra l'altro l'ho scritto anche nei commenti, quel video lì il drone lo stavo pilotando io di spalle. Cioè? Mentre recitavi? Nell'inquadratura, quando si allarga dietro, ci sono io di spalle che ho il telecomando. Quindi il drone era davanti a te mentre tu recitavi? Dietro di me, all'ultima scena della scarellata. Pazzesco. Quando era davanti era cavallettato. Sì. Ecco qua, posto. Dai amore, che sorpresa è? Hai presente quando mi parli di tutti i tuoi problemi, delle tue amiche che si fidanzano, che si lasciano, i tipi che si tradiscono? Quindi? E poi tutte le volte che ci dobbiamo vedere, ma devi andare dall'estetista. Oppure devi studiare in università. Cos'è che studi? Design? Dai, amore. Design ambientale, giusto? Ok. Volevo mostrarti la vastità del cazzo che me ne frega. È incredibile. E autoprodotto vuol dire anche questo, vuol dire farsi un po' cioè il mazzo. Autoprodotto proprio, autoprodotto totalmente. Sì, sì. Come produttore, quindi però sì. E adesso poi dopo l'estate c'è l'autunno e poi dopo l'autunno l'inverno e quindi cosa facciamo? E quindi cioè dove ci porti? Dove mi assumi quando farei? Allora, verso settembre tu dovresti avere già 100.000 iscritti, ce lo prefissiamo già da ora. Io, allora, in realtà adesso sto lavorando, come vi dicevo prima, volevo proseguire il progetto musicale e quindi uscirà una cosa nuova tra un po', che però non posso dirvi niente, mi dispiace. No, ma già sappiamo che c'è una cosa nuova. Ma perché è ancora in fase embrionale, cioè magari vi dico una cosa, poi ne esce un'altra, quindi sarebbe inutile spoilerare cose senza... No, sarà sempre sul filone elettronico. Ok. Sempre su quel filone lì. È molto bello, è tutto molto molto bello. Avviso Rocco. Esatto, avvisa tuo figlio. Senti, invece, sul, per quanto riguarda, appunto, visto che tu da grande volevi fare cose di video, quell'aspetto lì? Vabbè, il sogno del cassetto è lavorare nel cinema. Ecco, volevo sentire la parola cinema! Però, vabbè, sono cose che si dicono, però. Poi non lo so. Cioè, mi hai fatto tutta sta ramanzina che io devo diventare un blog, tutto digitale, tutta la rete, e poi il cinema. Sì, bello, ma il bello è questo, no? Il fatto che nessun mezzo uccida l'altro, cioè mi rassicura, pensi? Sì, sì, anch'io lo penso tantissimo. Sulla televisione ti vedevo meno ottimista. La televisione, ma non lo so, io non la guardo, quindi non sono grande fan della cosa. Però no, il cinema tutta la vita, stiamo tutta scherzando vita. Beh, no. Certo. Diciamo che il posto fisso non mi sembra che sia... Tu non è che stai lì. No, ci ho provato. Ci hai provato? Sì, avevo preso un ufficetto in Garibaldi per fare il montatore, eccetera. Ma è durato 2 mesi. Tipo, sì, quindi no, non sono una persona molto sedentaria. Amo sperimentare cose nuove, portare cose nuove in giro, vedere come vanno. E se vanno bene, bene, se no male. Guarda, un altro con i risvoltini ai pantaloni. Ma magari a casa allagata. No, è una moda. C'è qualcosa che ti è andata male finora? Che hai fatto una cosa male e hai detto no, questa proprio non mi piace, infatti non ha avuto successo. Ma in realtà no. Il trucco è darsi degli obiettivi non troppo alti, così non si rimane mai delusi. No, guarda, da interista. Tipo andiamo a comandare, io già se facevo 1 milione ero felicissimo. E te credo. Perché comunque 1 milione è tantissimo. Pure. Io posso dire solo una cosa adesso. Cosa? Andiamo a comandare. Andiamo a comandare, mi piace. Basta. Dai, beh, in attesa dei prossimi progetti intanto andiamo a comandare. Sì, quest'estate tutti andiamo a comandare, mi raccomando. Sì. Io ho già il trattore lì fuori pronto, caldo. Anch'io perché... è parcheggiato lì fuori. Poi lì c'hai un orsacchiotto addosso, no? Come un orsacchiotto? No, oddio, ecco, cosa mi sono perso? Non video? Hai, mentre lui sta lì sul trattore. Ah, il mio cane. Ma è Marley. È vivo. È Marley. Che come è vivo? Ma pensavo fosse finto. Pensavo ma fosse Marley, finto. Ma appunto, prima mi ha per me. Ma ho capito, pensavo fosse finto. Che ne no, so? No, è reale. Te l'ho detto che è reale, è il mio cane. Ma tra l'altro, volete ridere? Ieri ero a Roma e io il cane lo do a un mio amico che me lo tiene quando sono via. Sì. E gli ha messo una maglietta dell'Italia ed è finito su Studio Aperto. Mentre ero a Roma. Ma scusa, su Studio Aperto in quanto cane di Fabio Lovato? No, in quanto cane bello con la maglietta del che passava lì per caso. Sì, anche il cane virale da cane solo. 24 sì, sì. Da solo. Anche il mio cane ha dei progetti. Scusa, di cui non potresti toccare il mio iPad, la mia mano, non lo so, così perché così anche noi diventiamo oro. Vabbè. Veramente, sono felicissima, lo adoro ufficialmente, basta. Sì, dico solo questo. Figurati se io posso dire di diverso. Ti saluto Rocco, ti saluta Rocco. E grazie di essere venuto perché è stata un grande Rocco, molto saluto bella, devo dire. Grazie mille a voi. Grazie Fabio. Ciao. Mi raccomando. Sì, l'ho detto, lo faccio. Perfetto, perfetto. E racconto e seguo il tuo trucco. Ah, okay. Se però poi tutti mi viralizzano facendo la figuraccia. Ti insultano? Però, esatto. No, vai a testa alta, non ti preoccupare. Cosa fai? Quando ti insultano, ti criticano, cosa fai? A testa alta. A testa alta. Risponderò così, a testa alta. Così. Hashtag a testa alta. Andiamo a comandare a testa alta. Grazie Fabio. Ciao ragazzi, ciao. Andiamo a comando. Beh, Daniele, che puntata? Che puntatona, mi sa che mi devo preparare per il vlog. Il vlog, cosa vuole fare da grande Daniele Bellasio? Fare il vlogger, adesso che sa cos'è? E adesso parto. Seguitemi. Vediamo primo se arrivi. Primo obiettivo il milione, l'abbiamo detto. Perfetto, allora, ciao. Noi ci ritroviamo sabato prossimo e ringraziamo Cristian Goldoni in redazione, ringraziamo Carmelo Lauricella in regia, noi ci ritroviamo sabato prossimo. Sì.